America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. A short time ago, the US Air Force dropped a 21,000 pound bomb in eastern Afghanistan, the first use ever of this weapon in combat. Avete sentito dalla televisione americana, gli Stati Uniti hanno lanciato la madre di tutte le bombe, questo per rendere più aggressiva la guerra contro l'ISIS. In questo caso si è deciso di colpire un'unità dell'ISIS che si è localizzata in Afghanistan e si è deciso di colpire in particolare una rete di tunnel che i miliziani del distretto di Akin usano per collegarsi con vari villaggi, con varie città. Questo ordigno è la bomba più potente prima di passare alla bomba atomica, alla bomba nucleare. Un problema invece in Siria, un bombardamento aereo condotto dalla coalizione anti-ISIS è finito per colpire forze amiche, sono stati uccisi 18 combattenti siriani che collaborano con la coalizione internazionale nel tentativo di riconquistare Raqqa. Per il resto, grande festa alla Casa Bianca, caccia alle uova pasquali, ci si prepara anche in America alla domenica di Pasqua. E visto che siamo in atmosfera, come dire, un po' da distacco, la Pasqua arriva e che cerco di ricare la puntata del venerdì magari a un evento culturale, beh, questo evento, secondo me, che si è tenuto ieri a New York è di grande interesse. So Caravaggio was born in Milan in 1571, but his name is Michelangelo Merisi, but he's known as Caravaggio after the small town to the east of Milan from which his parents came and where he spent quite a few years during his childhood. C'è stata ieri l'inaugurazione di una nuova mostra di un quadro, anzi di due opere del Caravaggio. Questo Caravaggio è arrivato a New York grazie a un prestito dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino. Ecco, ci sono almeno tre punti di vista, secondo me, chiari, diversi, eppure legati l'uno all'altro, che si delineano nell'osservare queste due opere del Caravaggio. Quali sono le opere? Il Martirio di Sant'Orsola, che è stato dato appunto in prestito da Banca Intesa al Metropolitan, e La Negazione di San Pietro, che invece appartiene al Metropolitan. La particolarità di questi due quadri è che sono stati dipinti dal Caravaggio a distanza di pochi mesi l'uni dagli altri. In realtà l'ultimo è il Martirio di Sant'Orsola, l'ultimo quadro mai dipinto dal Caravaggio, poco prima di morire in modo drammatico, tragico, sulle spiagge di Portercole. Ecco, vi dicevo tre punti di vista. Il primo riguarda le opere stesse e la loro storia. Il secondo, il ruolo di una banca come Intesa San Paolo, che ha prestato appunto uno dei due quadri, in relazione ad altri musei, Metropolitan in primis. Il terzo, inevitabile conseguenza dei primi due, riguarda il ruolo della filantropia per la creazione di eventi come quello di ieri, che sono eventi indispensabili per affermare un nostro ruolo in un contesto di concorrenza multiculturale globale. Ecco, ma affrontiamo con Keith Christensen, il curatore d'arte europea del Metropolitan Museum, che ho visto ieri mattina. Sono andato all'inaugurazione ieri mattina di questa mostra, quindi abbiamo chiacchierato a lungo al museo, sia con lui sia con Gianmaria Grospietro, che è il presidente di Banca Intesa San Paolo. Beh, appunto, quello che è il primo punto di vista che emerge dalla visione di questi due quadri, cioè una conversazione sui quadri stessi. Devo dire che è stato un sogno di vedere questi due quadri insieme. Ci permette di capire qual è l'ultimo momento. Sono due quadri che sono stati fatti 3 mesi prima della morte di Caravaggio. È una vita che si apre dentro un fondo nero. E il nero non soltanto di colore, è un nero psicologico, emotivo, in cui si scopre tutto un altro aspetto della vita, la tragedia della vita, se possiamo dire. Dunque, vedere questi due quadri insieme focalizza l'attenzione su questo momento particolare anche della vita. Ecco, il secondo punto di vista che emerge chiaro da questa mostra riguarda la natura stessa di un accordo fra un grande museo globale e un'istituzione finanziaria. Ecco, vi dicevo, qual è il ruolo di un'Intesa San Paolo nei confronti di un museo? Beh, la realtà è che l'accordo a tutti gli effetti è fra museo e museo, perché l'arte ha un ruolo chiave, fondamentale per l'Istituto Bancario San Paolo. Pensate, ha una collezione di 20.000 opere d'arte. Poi la banca ha costituito, a partire da alcuni anni, in vecchie sedi di grande prestigio che prima ospitavano appunto gli sportelli, adesso sono diventate 3 gallerie d'Italia, sono aperte al pubblico, dove alcune di queste 20.000 opere sono distribuite. E per dare un'idea dell'intensità dell'attività culturale in Intesa San Paolo, Grospietro mi ha ricordato che a Milano appena 2 giorni fa è stata inaugurata una mostra dedicata al secondo Novecento intitolata, guarda caso, New York, New York, con opere di Fontana, Burri, De Chirico, Manzoni, questo per mostrare l'influenza americana su importanti artisti italiani. Ecco, sentiamo la mia chiacchierata con Grospietro, che ci dà il contesto museale di un'istituzione finanziaria come Intesa San Paolo. Il nostro progetto cultura ha un arco triennale entro il quale sono collocati tutti gli eventi che ne fanno parte, e di triennio in triennio sviluppiamo un programma che è fatto sia di messa a disposizione del pubblico delle opere che noi possediamo, sia di scambi con i musei internazionali, per esempio riuscire ad esporre un nostro dipinto importantissimo al Metropolitan Museum vuol dire due cose. Primo, far conoscere la cultura italiana in uno dei centri mondiali dell'irradiazione culturale, e questo è un bene per il paese, è un prestigio per il paese. Secondo, vuol dire anche che siamo riconosciuti da un museo del livello del Metropolitan come un interlocutore al quale possono essere non solo richiesti e accettati dei dipinti in esposizione, ma possono essere dati in cambio dipinti di altrettanto valore. All'inizio di maggio sarà esposto a Napoli, da dove proviene il Martirio di Sant'Orsola, un altro grande dipinto di Caravaggio, I Musici, che è di equivalente importanza. Ecco, arriviamo infine al terzo livello, cioè quello della filantropia, perché, lo dico spesso, in Italia la filantropia non è diffusa come è diffusa in America. Ci sono mille ragioni, una di queste ovviamente è fiscale, però qualche cosa sta capitando. Soprattutto c'è la Foundation for Italian Art and Culture, che è stata fondata qui a New York da Daniele Bodini, che è presidente di questa fondazione, guidata da Alain Elkann. L'obiettivo della FIAC è di portare opere uniche italiane in zone remote degli Stati Uniti. Devo dire, finora hanno avuto grande successo e sono stati partner, e qui ecco si vede come la filantropia può lavorare su più sponde, sono stati partner di Intesa San Paolo per portare questo straordinario quadro della banca italiana qui al Metropolitan Museum. Insomma, la responsabilità morale del give back, della restituzione, si sta facendo strada piano piano anche da noi. Se poi, come è successo ieri al Metropolitan e come succede in Italia con le mostre nelle gallerie italiane, ad aprire la strada, a preparare il terreno è un'istituzione come Intesa San Paolo, con la sua predilezione per un ruolo attivo, comunitario e con la forza di una grande collezione, beh, tutto sarà più facile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Beh, abbiamo parlato di arte e vorrei ricordare una canzone che adoravo, che riuscivo anche a fare ogni tanto alla chitarra, strimpellando un pochino, di Don McLean, Vincent, dedicata a Van Gogh. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!